Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi. Quanti giorni mancano alla fine della scuola? Vostro figlio sta già facendo il conto alla rovescia? Siamo al secondo quadrimestre. I nostri ragazzi si preparano allo sprint finale e poi via, vacanze. Un pensiero che in questo momento dell'anno aiuta a superare la stanchezza che c'è e si fa sentire, anche a scapito del profitto scolastico. Un indicatore che racconta molte cose di nostro figlio. Ecco, noi oggi partiamo proprio da qui, dalla fatica che segna e accompagna le giornate scolastiche dei nostri ragazzi. Vogliamo cercare di capire da che cosa può dipendere. Voi chiamateci 800 24 00 24, scriveteci 349 238 6666, ne parleremo con tanti esperti, ma saranno le vostre storie ad aiutare gli altri genitori all'ascolto. Intanto saluto Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano. Già ieri avevo annunciato la tua presenza, Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Questo è proprio un periodo caldo per i nostri figli studenti, perché noi siamo lì un po' che friggiamo sulla griglia con la prospettiva delle pagelle, in particolare i genitori degli studenti delle scuole superiori, che dovendo anche progettare quale vacanza di famiglia per i figli vogliono organizzare, stanno facendo i conti anche con le insufficienze, perché c'è il problema dei debiti, c'è il problema di recuperare tutto il resto. Il secondo aspetto è che questa è un po' la fase che dovrebbe precedere lo sprint finale, solo che alcuni figli sono magari molto stanchi, altri sono fortemente demotivati, altri non hanno mai messo neanche la terza, cioè non sono proprio partiti con la loro carriera di studente, quindi frullano in testa tante domande: avrà sbagliato orientamento, avrà sbagliato scuola, cosa si può fare, dove sta il problema? Direi che però, Alberto, possiamo partire da un consiglio che vale per tutti i ragazzi che frequentano la scuola, come si dice, di ogni ordine e grado: non andare mai, dico mai, a scuola a stomaco vuoto. Beh sì, quello questo mi sembra proprio inizio. Necessario, questo apre tutto il problema della prima colazione dei figli, ma il concetto è molto semplice. Noi al mattino, quando ci svegliamo, abbiamo una enorme distanza dall'ultimo pasto effettuato, che è quello della cena, il che significa che la nostra glicemia si è abbassata in modo significativo. È come avere il serbatoio in totale riserva, perciò andare a scuola con il serbatoio in riserva è come mettersi in partenza per un lungo viaggio senza sapere dove sarà la pompa di benzina più vicina. Il rischio è quello di rimanere completamente a secco, cosa che abbassa in modo significativo la prestazione di concentrazione e attenzione dei nostri figli, proprio perché il cervello ha bisogno di benzina. La sua benzina è lo zucchero, e lo zucchero nel sangue lo porti attraverso un buon pasto, che è la prima colazione. Da tutti definito il pasto più importante della giornata. Come a dire, Alberto, a stomaco pieno si ragiona meglio, ma a volte la colazione non basta. I bambini, ma la stessa cosa si può dire dei ragazzi, sono svogliati, disattenti, non riescono a stare al passo con gli altri compagni, fanno fatica, ottengono pochi risultati, vogliono proprio fare altro, andare altrove. Scuola voglio subito imparare a leggere, domani a scrivere, domall'altro a fare i numeri e bene fatto. Che è questa musica? Scusa, è quella la scuola? No, la scuola sta dalla parte opposta. E questo baraccone cos'è? C'è scritto sopra, non lo vedi? Leggi. Ma lo leggerei volentieri, però purtroppo proprio oggi non so leggere. Bravo bue, allora te lo leggo io. C'è scritto Gran Teatro dei Burattini. Ciao, io vado a scuola. Scusa, a me non mi interessa, ma se uno ci volesse andare, quanto costa per entrare? Ci vogliono 4 soldi. Per 4 soldi compreresti le mie scarpe? No. Scusa, il mio berrettino per 4 soldi? Neanche, ciao. E questo abbecedario nuovo che il mio babbo si è venduto la giacchetta a questi freddi per 4 soldi, te lo compreresti? No, mi fai fare tardi a scuola, dai, su. Te lo compro io per 4 soldi il tuo abbecedario. Oh, grazie! Vive un Pinocchio a casa vostra, 800 24 00 24 se volete intervenire. Alberto. Ma direi che la figura del Pinocchio è quella che spesso fa davvero arrabbiare tanto i genitori, cioè vedono i figli che provano a studiare circondati da quello che potremmo chiamare il paese dei balocchi, schermo acceso della televisione, messenger sul computer che continuano ad arrivare, cellulare SMS. E poi magari c'è vicino una console di videogiochi oppure un Nintendo eccetera eccetera, ed è chiaro che allora un genitore dice: ma tu non hai scelto la scuola, hai scelto di stare nel paese dei balocchi. E questa può essere una spiegazione per cui dovremmo in qualche modo riflettere come genitori se le attività di studio in casa dei nostri figli avvengono in un contesto che è davvero strutturato per renderli capaci di assolvere quel compito, ma a volte la storia è completamente diversa. A volte, cari amici, c'è dell'altro. L'anno scorso ha ripetuto la terza. Lei non ci crederà, la terza. E non c'erano miglioramenti. Mio figlio maggiore ogni anno è il primo della classe, in ogni materia. Qual è il suo problema, secondo lei? Problema? Il suo atteggiamento è un problema. Verso lo studio, verso tutte le cose. Ha sempre una scusa, fa i capricci. Non ascolta mai nessuno. Le chiedo qual è il problema e lei mi descrive i sintomi. Sta dicendo che suo figlio ha la febbre, già lo sappiamo. Perché ha la febbre? Questo le chiedo. Qual è la causa? Perché non me lo dice lei? Gli errori, quando legge o scrive, seguono uno schema. C'è un errore che si ripete. Schema? Quale schema? Solo errori su errori. Guardate, qui. Al posto della B scrive la D e viceversa. Sono lettere che gli sembrano uguali, le confonde. E qui ha scritto Sir al contrario. Scrive tante lettere al contrario, guardate. H minuscola e T minuscola, vedete? Come allo specchio. Animale, animale, animale. L'ha scritto in tre modi diversi. Vuol dire che ha memorizzato una parola errata. Seconda cosa, confonde le parole simili. Guardi, T-O-P diventa P-O-T, S-O-L-I-D, S-O-I-L-D. Perché fa così? È stupido? È svogliato? No, io penso che abbia difficoltà a riconoscere le lettere. E questa conversazione, tratta dal film Stelle sulla Terra, apre un tema su cui è necessario fare attenzione. In linea con noi abbiamo uno dei massimi esperti di disturbi specifici dell'apprendimento, il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica nell'Università di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, chissà lei quanti colloqui simili a quelli dell'inserto del film ha sentito e sui quali è intervenuto? Certo, tutti i giorni mi capita di parlare con genitori e insegnanti che naturalmente pongono il problema esattamente nei termini in cui lo ha posto questo padre del bambino, cioè dice: mio figlio, perché gli altri figli imparano e lui non impara? Perché non si impegna, perché è pigro, perché non vuole imparare, questo soprattutto. Ed è difficile far capire ai genitori che esistono certamente i bambini che non hanno voglia di studiare, i bambini che sono distratti dal mondo dei balocchi, come diceva prima Alberto Pellai, ma esistono anche i bambini che, nonostante un'attenzione volontaria, hanno dei meccanismi di elaborazione corticale, cioè nel cervello, che non consentono loro di fare le operazioni con la semplicità e con la correttezza con cui riescono alla stragrande maggioranza dei bambini, e questi si chiamano bambini dislessici o bambini disortografici o bambini discalculici. Quindi capisco che ci sia molto scetticismo, ma perché il comportamento è simile, ma il comportamento anche in medicina tante volte è simile, ma non è detto che poi la causa sia la stessa o sia univoca, quindi bisogna, ovviamente la ricerca ha messo in evidenza che questi problemi hanno una natura neurobiologica, e cioè esistono delle anomalie determinate da uno sviluppo neurologico atipico, sottolineo, non da lesioni, non da patologie, ma semplicemente da uno sviluppo neurologico atipico che ha tempi molto più lenti e che contiene, come dire, degli errori di elaborazione. Il risultato è che quando il bambino, tanto per citare il film che lei ha citato, guarda sulla lavagna, le lettere si muovono, le lettere si vengono confuse l'una con l'altra, la B viene scambiata per la D, la A viene scambiata per la E, eccetera, eccetera. E l'insegnante dice: ma perché sei così lento a copiare? Ma il bambino deve riconoscere segni che si muovono e che sono terribilmente simili per lui e deve riportarli sul suo quaderno. Ci mette molto tempo e alla fine per punizione viene anche spesso lasciato durante la ricreazione a terminare il suo compito mentre gli altri giocano, quando ha fatto il doppio di fatica ottenendo un quarto del risultato. Ora, sì, quando l'insegnante mette l'etichetta di pigro ad uno studente che invece ha tutto un altro problema, le conseguenze diventano gravi e il problema non è più ciò che lo studente ha, ma ciò che l'adulto fa, professor Stella. Certo, è questo. Il guaio è proprio questo, vede. Diciamo che l'ironia della sorte dà a questi bambini una caratteristica di essere simpatici, brillanti, attivi, capaci fuori dalla scuola. Dentro la scuola considerati invece pigri e incapaci. L'adulto trova che questa discrepanza di comportamento sia il segno che manca la voglia di impegnarsi e non considera che invece proprio questa discrepanza potrebbe essere il segno di un disturbo specifico di apprendimento. Abbiamo Giulio che ci chiama dalla provincia di Brescia all'800 24 0024. Giulio, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo qua. Ho chiamato perché devo ammettere che sono stato anche un Pinocchio, soprattutto durante le superiori. Sì. La cosa che ora mi fa pensare ascoltando i vostri interventi è che, avendo anch'io dei bambini che tra poco cominceranno la scuola, sì, mi preoccupa, sto cercando di capire come posso fare, chiedo a voi qualche consiglio per evitare che i miei figli facciano i miei stessi errori. Sì. Io ho cercato di individuare un pochino quali sono state le dinamiche dei miei fallimenti scolastici. Sì. E devo dire che in primis sicuramente è la distrazione. Mm. La distrazione, senza premetto voler colpevolizzare i miei genitori, distrazioni che non sono mai state, diciamo, richiamate con una dovuta severità, semplicemente perché le mie distrazioni erano tra virgolette buone, nel senso che fin da adolescente io ero molto interessato al volontariato. Sì. Per cui è difficile richiamare un ragazzo che studia poco, però fa molto per gli altri, insomma, è impegnato, certo. Per gli altri, nel senso, se avessi detto non studio perché voglio andare in giro con lo scooter. Sì. Chiaramente sarebbe stata diversa la motivazione del richiamo. Ecco, questo. Ma che cosa poi l'ha aiutata Giulio a recuperare? Non ho mai recuperato. Non ho mai recuperato. Forse mi riconosco un pochino in quello che ha detto il professore di poco fa. Sì, il professor Stella. Sì, ecco, il professor Stella, chiedo scusa, non ho il nome. So che non era disattento, Giulio. Riguardo alla difficoltà che aveva magari nel leggere, nel riconoscere le parole? Ma sì, credo di sì, che spesso un passaggio, un paragrafo di poche righe, prima di riuscire a capirlo, almeno 10 volte lo dovevo leggere, ricollegandolo all'argomento che ci stava prima. Riuscivo magari a concentrarmi sulle 4 righe, ma dimenticavo quello che stava prima, non riuscivo a collegarlo con quello che veniva dopo. Ecco, Alberto, c'è proprio un problema di concentrazione e Giulio è preoccupato, dice: ma allora io che cosa posso fare perché i miei figli non mi assomiglino troppo, no? Evitare che si ritrovino in questa situazione che, ricordiamo, per il ragazzo è faticoso. Per un ragazzo che va male a scuola, diciamo tutto quello che vogliamo, può essere pigro, ecco, però anche quando si appiccica sopra questa etichetta, anche lui poi fa fatica a cambiare strada, Alberto. Certo, anche se direi che poi il racconto che ci fa Giulio è molto situazionale, cioè lui lo racconta e lo riferisce alla scuola superiore e questa incapacità di concentrarsi dentro a un'idea di andare a cercare altrove dove stava la sua passione, la sua motivazione, forse ci fa anche ipotizzare un sospetto di difficoltà di orientamento, un problema di orientamento, forse non era la scuola giusta per lui, o i metodi che sono stati usati in quella scuola non sono stati in grado di uncinare, ecco, la sua attenzione, quindi lui si è un po' perso per strada. Direi che rispetto ai suoi bambini che stanno per cominciare la scuola elementare, usare soltanto proprio in questo momento tanto ottimismo, tanto sostegno, tanta fiducia, cioè c'è tutto un mondo che deve ancora cominciare, stare ad osservare che cosa succede a loro. Credo che sia bellissimo per un genitore sostenere proprio la passione dell'andare a scuola e fare un'alleanza con le maestre. Certo, è faticoso, però guarda che i bambini sono proprio fatti per imparare, certo. E spesso quando incontrano la classe giusta e la maestra giusta, l'esperienza della scuola è proprio un'esperienza magnifica. Poi sbocciano. Dove sbocciano? Tu bocci, io sboccio. È un libro che è stato scritto da Eugenio Scardaccione, Gegè come i più lo conoscono, proviene da un passato da scolaro che egli stesso definisce disastroso, ma che non gli ha impedito di conseguire 2 lauree, di superare 5 concorsi, di diventare preside, o come si usa dire oggi, dirigente scolastico. Buongiorno preside. Buongiorno. Lei era altro che un Pinocchio. Pinocchio diceva bugie per cercare di cavarsela, e tutto sommato si sa che ci sono alcune bugie che possono anche aiutare la crescita quando gli adulti sono assenti, ma nel mio caso non era questione di essere Pinocchio. Io non avrei mai voluto dire bugie. Però il suo rendimento scolastico... Eh sì, il mio rendimento scolastico era disastroso e io parlo non di colpe ma di responsabilità, o meglio di corresponsabilità. C'era forse nella mia vicenda, adesso ne parlo con molta più serenità, perché ho rielaborato, sono passati circa 40 anni, quindi ne posso parlare senza essere coinvolto emotivamente, ma l'ecoresponsabilità era di un sistema, docenti che avevano un tipo di dialogo carente, genitori che ce la mettevano tutto ma non avevano gli strumenti adeguati, io stesso che crescevo con difficoltà, anche certo. Se vivevo in un ambiente tutto sommato rassicurante. Allora, 2 esperti, il professor Stella, il preside Scardaccione, insieme ad Alberto Pellai, cercheremo di spiegare le difficoltà che molti dei nostri ragazzi, dico ragazzi perché ci occuperemo dei bambini, delle elementari, ma cresceremo un po' con loro, e quindi cercheremo di spiegare di darvi degli strumenti per capire se dietro la difficoltà del nostro bambino, di nostro figlio, si nascondono dei disturbi specifici d'apprendimento, oppure bisogna, Alberto, intervenire, motivarli, sostenerli, a volte accompagnarli anche magari qualche volta, no? Rimproverarli. C'è Filippa Oreggi in regia che mi dice che è tempo di andare ai mercati. Avrei voluto sentire Claudio da Vicenza, a cui do appuntamento subito dopo i mercati e il meteo. Bravissima. Essere e benessere. In effetti Carlotta scriveva malissimo, saltava le righe nella lettura se non manteneva il dito come guida sul libro, invertiva le sillabe, a volte anche le parole, e spesso ne inventava lei delle nuove nell'ambito di un brano, che fra l'altro risultava sempre incomprensibile. La sua soglia di attenzione a scuola era bassissima e molte volte i lavori assegnati dall'insegnante non venivano completati. Le pagine o erano incomplete o completamente bianche. Un breve estratto dal libro La storia di Carlotta, edizioni biografiche, ci riporta al tema di oggi: difficoltà scolastiche, rischio anche di possibile fallimento, da cosa dipendono e come aiutare i nostri figli a superarli, quando riconoscere un problema oggettivo alla base di tutto. Professor Stella, qual è il momento giusto per verificare se uno studente che va male a scuola deve le sue difficoltà ad un disturbo specifico di apprendimento? Insomma, quando, chi e come? Sì, ormai gli strumenti consentono di fare questo in prima e in seconda elementare, sì. Però volevo fare riferimento al Giulio, l'ascoltatore che è intervenuto prima, per dire che il livello di consapevolezza poi soggettiva dello studente non viene mai alle scuole elementari, perché il bambino è troppo piccolo, fa fatica ai genitori, e quindi questa storia sia dello studente, del Giulio che da studente di scuola media superiore si accorge delle sue difficoltà, del fatto che deve rileggere tante volte, sia del nostro dirigente scolastico, è chiaro, il livello di consapevolezza si sviluppa tardivamente, però la possibilità di identificare il problema è molto più precoce e bisogna farlo il prima possibile, perché gli interventi rieducativi, cioè quelli che fanno riconquistare un po' di funzionalità al sistema, devono essere fatti il più precocemente possibile, altrimenti hanno un valore molto meno significativo e molto meno efficace. Quindi l'identificazione si fa fin dalla prima elementare, anche se la comunità scientifica ammonisce a porre una diagnosi a partire dal completamento della seconda elementare, perché ovviamente potrebbe trattarsi di un ritardo di apprendimento, cioè di un bisogno di tempo in più, oppure di qualche errore condotto dalla famiglia, dalla scuola, dagli insegnanti nell'aiutare il bambino. Ma questo non deve indurre la scuola a ritardare le segnalazioni, anzi ne approfitto per dire che nell'ottobre scorso il Parlamento italiano ha varato una legge a favore dei bambini con dislessia che impegna le scuole, questa è la novità molto importante, a cercare degli strumenti di identificazione del problema il più precocemente possibile. Questo vuol dire che bisogna fare una massiccia azione di formazione verso gli insegnanti per avviarli a discriminare quello che appunto si dice il bambino pigro dal bambino che ha invece oggettivamente le difficoltà. Ecco, parliamo di bambini ma anche poi di ragazzi, perché se il problema non viene diagnosticato, non viene affrontato, insomma il ragazzo dislessico con problemi di dislessia rimane, continua il suo percorso scolastico in mezzo a tante difficoltà, ma ne parleremo col professor Stella e anche con il preside Scardaccione. Io avevo un appuntamento con Claudio da Vicenza. Claudio, eccoci. Sì, pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, proprio in virtù di quello che stava dicendo, le ultime parole che stava dicendo il professore, ecco, il mio bambino, tra virgolette, ha 20 anni, ecco, è un ragazzo che, come tantissimi, come la maggior parte dei ragazzi, dove vuole lui è in grado di affrontare problemi e svolgere le sue cose da ragazzo più che maggiorenne. Ecco. Sì. Il problema è che lui ancora oggi, pur frequentando il secondo anno dell'università, ce lo dice apertamente che ha notevoli problemi a mantenere l'attenzione su un certo livello, cioè lui dopo 10 minuti nei quali riesce a seguire con una buona attenzione la lezione del professore all'università, deve prendersi una pausa, è qualcosa di automatico. Trattandosi appunto di un ragazzo che non è più un bambino, cosa si può potrebbe fare? Essere, se sono ancora in tempo, un rimedio più esplicito, visto che ne possiamo parlare apertamente con il ragazzo senza interventi subdoli o come dire, ecco. Allora, un doppio parere dal professor Stella e poi vado dal nostro preside. Professor Stella. Sì. Bisogna tener conto di una cosa che noi dimentichiamo sempre: leggere e ascoltare sono due processi completamente automatici che non costano nulla alla maggior parte delle persone. Quando prima Giulio diceva io devo leggere e rileggere anche 10 volte per capire, quello è già un segno di un disturbo di apprendimento, perché la lettura, io faccio sempre degli esempi agli insegnanti quando faccio la formazione, mostro a loro una schermata con una parola lunga 12 lettere che presento loro per 200 millisecondi, cioè un quinto di secondo, e senza preavviso le persone riescono a leggere. Il dislessico questo non riesce a farlo, anche se ha 20 anni. Quindi l'attenzione anche nell'ascolto probabilmente è difficoltosa, perché il processamento, cioè l'elaborazione del linguaggio verbale, costa un po' troppo. E allora, a proposito sempre di quello che dice intelligentemente Pellai, quando il nostro motore consuma troppo, dopo pochissimo tempo va in riserva, sì, e non ne ha più. E quindi questo problema di attenzione certamente si può affrontare anche a questa età, con però qualche strumento. Per esempio, se il ragazzo si dota di strumenti di registrazione della lezione, anche se lui, se la sua attenzione non riesce a essere all'università, io insegno all'università, non ci sono problemi, ho sempre gli studenti che piazzano i loro registratori per registrare la lezione. Se per caso quindi hanno dei cali di attenzione, possono integrarli poi recuperando a casa attraverso l'ascolto della lezione. Questo è un modo, diciamo, molto empirico ma molto efficace per rimediare a una defiance di questo genere. Secondo punto, chiedere al docente, che ormai tutti i docenti sono disponibili a fare questo, di presentare in anticipo le slide che utilizzeranno durante la lezione, oppure di fare la lezione con dei supporti multimediali che aiutano a mantenere la vigilanza, diciamo, attiva. Quindi ci sono dei meccanismi che possono aiutare l'adolescente e l'adulto dislessico a migliorare le sue prestazioni attentive. Il professor Stella in qualche modo ci aiuta a capire i due fronti per il riconoscimento e la gestione del problema, che da una parte devono portare alla consapevolezza di chi ha un disturbo specifico dell'apprendimento ad accorgersene e poi a poter gestire strategie su cui è stato istruito, formato e informato. Ma vorrei chiedere al preside Scardaccione, proprio in quanto preside, quello che ci diceva il professor Stella è anche che devono essere consapevoli i docenti che, se lavorano con studenti che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento, devono fare delle cose in modo differente o specifiche per venire incontro a quel bisogno. Che consapevolezza hanno, per esempio, i suoi docenti, preside Scardaccione, sul tema, e che competenze sanno mettere in gioco? Allora, io dico subito che da tutto ciò che ho ascoltato credo che bisogna prendere una consapevolezza collettiva, individuale e poi collettiva. Tutti noi, cioè chiunque ha a che fare con una relazione educativa, ha bisogno di un aggiornamento, di una formazione continua, non obbligante, non astrusa, non astratta. Dico questo perché rispetto alle tante tematiche, soprattutto quelle di questa mattina, inerenti alle difficoltà di apprendimento, noi docenti, perché io sono sì preside, coordino una scuola, animo, cerco di animare una scuola, ma sono stato docente anch'io e capisco bene che il tema della formazione è un tema nodale per mettere in campo strategie e metodologie di insegnamento che possono provocare un apprendimento duraturo, funzionale e legato alla vita. Ecco, a me sembra questo uno dei temi nodali della nostra discussione. Quando prima l'ascoltatore Giulio diceva la mancanza di disattenzione, o altri dicono di distrazione o le difficoltà di apprendimento, è perché spesso, non è solo questa la variabile, ma credo dal punto di vista del docente e di preside, credo che sia fondamentale collegare e legare, avere un nesso tra la scuola e la vita, tra ciò che noi insegniamo e ciò che noi poi viviamo. I ragazzi di adesso, soprattutto, io credo i ragazzi di tutte le epoche, sì, ma adesso in modo particolare, forse. Adesso in modo particolare ci sono stimoli disorientanti. Da una parte abbiamo internet, Twitter, Facebook, la televisione, la radio, che sono assolutamente degli strumenti utilissimi, ma dall'altra parte questi strumenti possono provocare una dipendenza e un disorientamento veramente micidiali. Allora, per concludere questo concetto, io credo che i docenti debbano formarsi continuamente e cercare di capire che insegnare è una tecnica da una parte, ma anche va riempita di metodologie, di tecnologie, di strategie molto diversificate. Il buon insegnante, che deve avere una nozione di sé positiva, equilibrata, che non si deve sempre lamentare, ma non deve pretendere la luna nel pozzo, deve sapere di avere di fronte dei ragazzi che chiedono un tipo di apprendimento legato alla vita. e soprattutto per i ragazzi in difficoltà, certo, i ragazzi in difficoltà, bisogna cercare, come diceva prima il professore, di ascoltarli. E perché... noi andiamo a ascoltare invece le notizie sul traffico, poi ritorniamo subito dopo insieme. Abbiamo Nadia da Treviso che ci aspetta. A tra poco. Essere e benessere. Che fatica, ragazzi, si fa ad andare a scuola e noi stiamo cercando di capire che cosa si nasconde dietro questa fatica. Affronteremo anche il grande problema delle ripetizioni private tra poco. Chiederemo al nostro preside, lo faccio aiutare, lo faccio sostenere da qualcuno proprio in questo momento, no? Dell'anno scolastico in cui deve recuperare energie, concetti. Voi che state facendo? Intanto Nadia da Treviso, buongiorno Nadia. Buongiorno, io telefonavo per parlare di mio figlio, sì, che fa la prima liceo, e dalla seconda elementare le maestre mi avevano segnalato delle difficoltà, quelle che sono state così raccontate dal professor Stella. Esattamente. Sì. E lei che ha fatto? Prego, scusi. E lei che cosa ha fatto? Allora, innanzitutto devo dire che la scuola ha rimandato a me il problema e l'ha lasciato nella mia completa gestione, ma a parte questo, quindi mi sono mossa nell'ignoranza e chiedendo a destra e a sinistra siamo andati da un logopedista, abbiamo fatto una visita con un psicologo e abbiamo fatto anche una visita per l'udito. Sì. Nessuno mai mi ha parlato chiaramente di dislessia, sì, nessuno mai ha usato questa parola, sì, delle difficoltà con qualche esercizio, ma il bambino non ha problemi, dovrebbe avere un metodo per studiare, cose di questo genere. Sì. Siamo arrivati alla prima liceo dove mio figlio, qui davanti a me un tema, guardi, stamattina mai trasmissione poteva venire a fagiolo, e dove lui fa ancora degli errori di grammatica o geografia. Io qui una parola scritta che doveva scrivere a parte, lui la scrive tutta attaccata con la doppia P, affezionato, doppia Z. Ma questo io ho fatto... Ma professor Stella, qua c'è mancano le regole di ortografia o c'è qualche problema o c'è invece una difficoltà? Naturalmente è difficile fare una diagnosi al telefono, certo, su un'informazione così breve. Tuttavia si può dire che la persistenza degli errori ortografici in ragazzi che hanno una famiglia che li segue e che fanno un percorso scolastico fino al liceo è molto rara, e soprattutto i ragazzi dislessici tendono a fare degli errori ortografici implausibili, tipo scrivono linguaggio l'apostrofo linguaggio, oppure appunto attaccano delle parole che non vanno attaccate, eccetera. Quindi certamente il problema che pone la signora è anche un problema di formazione dei clinici, che non sempre hanno la preparazione per tenere conto anche di ipotesi che richiedono una valutazione neuropsicologica accurata. Questo bisogna purtroppo riconoscerlo, anche se ultimamente in questi anni si è fatto in Italia molto, la situazione è migliorata. Tuttavia ancora può succedere che un ragazzino viene scambiato semplicemente per distratto, perché l'udito è integro, la vista va bene e quindi tutti gli organi di senso funzionano. Ma il problema non è a livello degli organi di senso, il problema è a livello di funzionamento di alcune aree del cervello, che quindi vanno indagate con altre metodologie, certamente dopo avere verificato che il sistema sensoriale funziona. Professor Stella, ma prima di salutarci, possiamo dire che non è mai troppo tardi? Assolutamente sì, non è mai troppo tardi. E poi volevo lanciare anche questo messaggio: siccome si è detto prima che ci sono tante distrazioni e tante difficoltà, è un motivo in più, e lo dico soprattutto al dirigente scolastico che ho sentito che ha un registro molto simile a quello che adotto io, per ricordarci che se da un lato è vero che l'apprendimento costa sempre fatica e costerà sempre fatica e deve costare fatica, non bisogna scambiarlo per una punizione. E questo vuol dire che quando un ragazzo che ha delle difficoltà di apprendimento non riesce a scrivere bene in corsivo, a imparare a memoria le tabelline, a ricordarsi alcune regole, liste di regole, queste che sono cose non utili per la vita, come ha detto il preside, o utili solo a chi le ha a disposizione, se vengono richieste sono delle punizioni e viene perso di vista quello che invece è l'obiettivo del successo formativo, che è apprendere i contenuti. questo è il mio messaggio finale. Grazie. Aiutiamoli in questa direzione. Vi ringrazio e vi chiedo scusa se buona giornata. Buona giornata. Preside, ripetizioni sì o no? Servono, aiutano, sostengono oppure il ragazzo si adagia? Questo è un po', molti genitori immagino se no le l'abbiano chiesto quando lei faceva l'insegnante, ma devo farlo aiutare da qualcuno? Lei che cosa rispondeva? Devo parlare io? Sì. È lei il nostro preside oggi? Sì, no. Io devo dire la verità, sono molto d'accordo con quello che ha detto il professor Sella poco fa. Sì. E devo dire che mi si chiede spesso, mi si fa spesso, mi si pone spesso questa domanda. Sapendo, io ho una relazione di amici molto vasta e allora mi si chiede, ma mio figlio va poco bene, è in difficoltà, per farlo recuperare, da chi lo devo mandare? Ed è una domanda legittima. Io mi chiedo questa domanda che cosa nasconde. Allora, secondo me, brevemente nasconde almeno tre altre variabili. La prima, tre dimensioni. La prima dimensione è che io devo andare avanti, far andare avanti mio figlio che va male e quindi lo deve recuperare, pertanto faccio quello che posso, chiamo un professore e lo pago e poi dopo tutti quanti sono contenti. Quindi solo una questione tra virgolette utilitaristica buona, giusta, sì, insomma, rispetto al discorso della scuola. La seconda invece è la tortura dei genitori, soprattutto per i ragazzi che vengono seguiti dai genitori in maniera inadeguata, anche se in buona fede, molte volte il carico dei compiti complicati, oltre che dei figli, diventa dei genitori. Sì. Molte volte, soprattutto nella scuola elementare e nella scuola medie, li fanno i genitori i compiti, quindi assolutamente improprio. La terza, su cui mi vorrei soffermare velocissimamente un po' di più, che la situazione è quello che comporta un coinvolgimento intelligente tra scuola e famiglia. Sì. Tra quello che chiede la scuola e quello che vuole la famiglia, e la collaborazione virtuosa tra scuola e famiglia dovrebbe agevolare l'apprendimento del ragazzo. E allora succede, così per la mia esperienza, che i ragazzi a cui si danno tanti compiti, che hanno difficoltà, non li fanno. Perché pensano ad altro, non hanno tra virgolette l'interesse di rispondere al bravo ragazzo figlio di medico, dottore o ingegnere che vuole fare i compiti per bene, no? Quelli lì che chiedono ripetizioni sì o ripetizioni no? Io non ho capito. Io dico ripetizioni solo quando servono per approfondire qualche argomento che può essere assolutamente stimolato durante le ore di lezione. Io sono per una scuola durante le ore, le 5, le 6 ore a seconda di lezione, che possa essere interattiva, interessante, attraente e che il docente dia gli strumenti per capire meglio la realtà e anche per imparare naturalmente anche le nozioni. Tutto io questo. Vorrei sentire ancora, Alberto, ce la facciamo. Francesca da Rimini, 800 24 00 24. Francesca, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io ho avuto un problema sin da bambina, proprio piccola, alle elementari. No, io non riesco a fare i calcoli a mente. E questa cosa mi ha funestato tutta la carriera scolastica, perché poi a causa della incapacità in aritmetica sono dovuta andare a fare l'avviamento, che allora c'erano l'avviamento e le medie. E questa cosa proprio veramente l'ha segnata, come si dice. Dopo, tant'è vero che mi sono laureata a 54 anni in lettere. Però, per vendetta. Brava, vedi Alberto, non è, come dicevamo, non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, probabilmente la situazione di Francesca è quella legata a una diagnosi di discalculia, ma Francesca ci dimostra anche come la resilienza, cioè ciò che non solo siamo ma vogliamo essere e diventare, permetta poi di prendersi grosse e importanti rivincite. Un vero maestro. Grazie al nostro preside Eugenio Scardaccione, ad Alberto Pellegrini, Bellai, a voi che ci avete seguito. Vi ricordo e vi invito a fare un salto nel nostro Daily Lab, il laboratorio, l'officina in cui ogni giorno i nostri esperti vi danno un consiglio per stare bene e provare a stare ancora meglio. Con questo io vi saluto, vi auguro una buonissima giornata e come sempre vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Essere e benessere.